Capitolo 48. Un'imputata innocente. Con la testa china, come se stesse affrontando raffiche feroci, eppure non si muoveva un alito di vento, Mr. Gibson tornò rapidamente a casa. Suonò al campanello della porta, gesto inusuale da parte sua. Maria aprì l'uscio. Andate a dire a Miss Molly che è desiderato in sala da pranzo. Non dite chi è che la vuole. C'era qualcosa nei modi di Mr. Gibson che indusse Maria a obbedire alla lettera, nonostante la domanda sorpresa di Molly. Mi vuole? E chi è Maria? Mr. Gibson entrò in sala da pranzo e chiuse la porta per un momento di solitudine. Si avvicinò alla mensola del caminetto, la afferrò, posò il capo sulle mani e tentò di frenare il battito del suo cuore. La porta si aprì. Egli sapeva che Molly era lì anche prima di udire il suo tono sorpreso. Papà! Zitta, fece lui, voltandosi di scatto. Chiudi la porta e vieni qui. Lei si avvicinò, chiedendosi se ci fosse qualcosa che non andava. I suoi pensieri volarono subito agli Amley. È per via di Osborne? Chiese senza fiato. Se Mr. Gibson non fosse stato troppo agitato per giudicare con calma, avrebbe tratto conforto da quelle parole. Ma invece di consentirsi di trarre sollievo da un'evidenza collaterale, gli disse: Molly, cosa sento dire? Che hai intrattenuto una corrispondenza clandestina con Mr. Preston, che lo hai incontrato in posti fuori mano, che hai scambiato furtivamente lettere con lui. Per quanto egli professasse di non prestarvi fede ed effettivamente non ci credesse nel profondo della sua anima, la sua voce fu dura e severa, il suo volto pallido e truce, e i suoi occhi si fissarono su Molly con intensità, terribili e penetranti. Molly tremò tutta, ma non tentò di sottrarsi a quell'esame. Se tacque per un istante, fu perché ripensò rapidamente alla sua relazione con Cinzia in quella circostanza. Fu solo un attimo di silenzio, ma quella pausa sembrò durare lunghi minuti a colui che bramava uno sfogo di indignata smentita. Egli le aveva afferrato entrambe le braccia sopra i polsi, non appena lei gli si era avvicinata. Non era conscio del proprio gesto. Ma mentre la sua impazienza per le parole di lei si faceva più intensa, la stringeva sempre più forte, come una morsa, finché la ragazza emise un leggero e involontario suono di dolore. Allora egli la lasciò e guardò la sua morbida pelle ferita, mentre le lacrime salivano velocemente agli occhi di Molly nel pensare che lui, suo padre, avesse potuto farle tanto male. In quel momento le parve più strano che egli potesse infliggere un dolore fisico alla sua bambina piuttosto che il fatto che fosse venuta a conoscenza della verità, persino in una forma esasperata. Con un gesto infantile, ella tese il braccio verso di lui, ma se si aspettava compassione, non ne ricevette alcuna. Puah! Fece lui, guardando appena il segno della stretta. Quello non è nulla, nulla! Rispondi alla mia domanda. Hai incontrato quell'uomo in privato? Sì, papà, è così. Ma non pensavo che fosse sbagliato. Ora lui si sedette. Sbagliato! Ripeté amaramente. Che non fosse sbagliato! Beh, in qualche modo lo dovrò sopportare. Tua madre è morta e questo è un conforto. Allora è vero, dunque? Beh, io non ci ho creduto, non io. Ho riso sotto i baffi della loro credulità e per tutto il tempo, lo scemo, sono stato io. Papà, non posso raccontarti tutto. Non è un mio segreto, altrimenti l'avresti saputo subito. In effetti, a un certo punto ti dispiacerà. Finora non ti ho mai ingannato, giusto? Tentando di prendergli una mano, ma lui le teneva in tasca mentre con gli occhi fissava il disegno del tappeto davanti a sé. Papà, ripeté lui supplichevole. Ti ho mai ingannato? Come posso dirlo? Ho appreso tutto questo dalle chiacchiere della città? Non so cosa possa succedere ancora. Le chiacchiere della città, ripete Molly sgomenta. Perché dovrebbero essere affari loro? Tutti ritengono che siano affari loro, quando è ora di gettare fango sul nome di una ragazza che ha contravvenuto alle più ovvie regole di pudore e di decoro. Papà, sei molto duro. Contravvenire alle regole del pudore. Ti racconterò esattamente cosa ho fatto. Ho incontrato Mr. Preston una volta, quella sera che mi hai fatta scendere per percorrere a piedi Croston Heath. E con lui c'era un'altra persona. L'ho incontrato una seconda volta, E in quel caso su appuntamento, e non c'era nessun altro oltre a noi due nel Parco delle Torri. E questo è tutto. Papà, devi fidarti di me. Non posso dare altre spiegazioni? Però tu devi assolutamente avere fiducia in me. A quelle parole egli non poté che addolcirsi. C'era tanta autenticità nel tono in cui furono pronunciate. Però non parlò né si mosse per un minuto o due. Poi alzò gli occhi per incontrare quelli della figlia, per la prima volta da quando lei aveva ammesso la verità apparente di ciò di cui lui l'accusava. Il viso di Molly era molto pallido, ma portava impressa la sincerità estrema della morte, quando a prevalere è l'espressione del vero, libera dai meschini travestimenti del tempo. «Le lettere?» disse lui, ma come se si vergognasse di interrogare ancora la ragazza con quel viso. Le ho dato una sola lettera, della quale non ho scritto neanche una parola, che in effetti credo fosse solamente una busta e non contenesse alcun messaggio. La consegna di quella lettera e i due colloqui che ho menzionato e basta, sono il rapporto privato che ho avuto con Mr. Preston. Oh papà, cosa hanno detto per addolorarti, per sconvolgerti così tanto? Non importa. Per come va il mondo, ciò che tu dici di aver fatto, moglie, è sufficiente. Devi raccontarmi tutto. Io devo essere in grado di controbattere a queste chiacchiere punto su punto. Come possono essere smentite quando sostieni che la verità che ho ammesso è sufficiente per giustificare quanto la gente va raccontando? Dici che non hai agito per te stessa, ma per qualcun altro. Se mi riveli di chi si tratta, se mi racconti ogni cosa, proprio tutto, io farò quanto è in mio potere per proteggerla. Perché ovviamente immagino che stiamo parlando di Cinzia. Mentre discolperò te. No, papà, obiettò Molly dopo qualche riflessione. Ti ho raccontato tutto quello che posso, tutto ciò che riguarda me, e ho promesso di non dire un'altra parola. Allora il tuo carattere sarà messo in discussione. Sarà così per forza, a meno che non venga fornita la più completa spiegazione per questi incontri segreti. Ho una gran voglia di costringere Mr. Preston a sputar fuori la verità. Papà, ancora una volta ti prego di fidarti di me. Se domandi a Mr. Preston, molto probabilmente apprenderai tutta la verità. Ma questo è proprio quanto ho tentato così a fatica di nascondere, perché se si saprà, renderà infelici molte persone e ormai la faccenda è risolta e conclusa. Non il tuo coinvolgimento. Miss Browning mi ha convocato stasera per informarmi di cosa la gente dice di te. Insinuava che il tuo buon nome è perduto per sempre. Tu non sai, Molly, quanto un'inezia possa oscurare per l'eternità la reputazione di una fanciulla. Ho fatto molta fatica ad ascoltare quanto mi diceva, sebbene al momento non credessi a una sola parola. E ora tu ammetti che la gran parte di questa storia è vera. Ma io penso che tu sia un uomo coraggioso, papà. E mi credi, non è vero? Sopravviveremo a questi pettegolezzi, non temere. Tu non conosci il potere delle malelingue, bambina, disse lui. Oh, adesso che mi hai chiamato di nuovo bambina non mi interessa nient'altro. Caro, caro papà, sono sicura che la cosa migliore e più saggia è non far caso a questi discorsi. Dopotutto, la gente potrebbe non aver avuto cattive intenzioni. Di certo, non Miss Browning. Piano piano dimenticheranno completamente quanto rumore abbiano fatto per nulla. E anche se così non fosse, tu non vorresti che io venissi meno alla mia promessa solenne, giusto? Forse no, ma non posso perdonare facilmente la persona che, approfittando della tua generosità, ti ha messa in questo guaio. Tu sei molto giovane e consideri queste cose come mali solo temporanei. Io ho più esperienza. Eppure, non vedo cosa posso fare adesso, papà. Forse sono stata sciocca, ma ciò che ho fatto, l'ho fatto di testa mia. Non mi è stato suggerito e di certo non era moralmente sbagliato, nonostante il modo in cui potrebbe venir giudicato. Come ho detto, ora è tutto finito. Ciò che ho fatto ha messo fine alla questione. Sono grata di poterlo dire. Ed è con questo intento che ho agito. Se la gente vuole parlare di me, devo accettarlo. E anche tu, papà. Tua madre, Mrs. Gibson, ne sa qualcosa? Chiese lui con ansia improvvisa. No, niente di niente, neanche una parola. Ti prego di non parlargliene. Potrebbe portare a più danni che qualsiasi altra cosa. Davvero, ti ho raccontato tutto ciò che sono libera di rivelare. Fu un grande sollievo per Mr. Gibson apprendere che l'improvvisa paura che la moglie fosse a conoscenza di tutto fosse infondata. Egli era stato colto dal subitaneo terrore che lei, la donna che aveva scelto di sposare per offrire una protezione e una guida per Molly, fosse stata a corrente di questa incauta avventura con Mr. Preston. Anzi, peggio, che avesse addirittura istigato il tutto per salvare la propria figlia. Infatti, egli non dubitava minimamente che dietro a tutta questa faccenda, in un modo o nell'altro, ci fosse Cinzia. Almeno però Mrs. Gibson non era stata sleale, e questo era il solo conforto che Mr. Gibson potesse trarre dalla misteriosa missione di Molly, ovvero che il fatto che Mrs. Gibson venisse a conoscenza di quegli incontri con Mr. Preston avrebbe causato gravi danni. E dunque? Cosa si deve fare? Disse l'uomo. Le voci corrono e io non devo far nulla per contraddirle. Mentre si parla così di te, le chiacchiere passano da una comare indolente all'altra. Io devo andarmene in giro contento e sorridere. Temo di sì. Mi dispiace tanto, però non ho mai voluto che tu lo venisse a sapere e ora posso vedere quanto la cosa ti faccia agitare. Ma di certo, se non accade nient'altro e niente conseguenza a quanto è già accaduto, le domande e i pettegolezzi svaniranno, no? Io so che tu credi a ogni parola che ho detto e che ti fidi di me, papà. Ti prego, per amor mio, porta pazienza con queste chiacchiere e questi schiamazzi. Mi metteranno a dura prova, Molly. Fallo per me, papà. Non vedo cos'altro potrei fare, convenne lui di malumore. A meno che non agguanti Mr. Preston. E questa sarebbe la cosa peggiore di tutte. Desterebbe scalpore. E poi forse lui non è poi tanto da rimproverare. Ma sì, che lo è. Però con me si è comportato bene, in buona sostanza, disse lei, ricordando d'un tratto la sua frase quando Mr. Sheepshanks si era avvicinato a loro nel parco delle torri. Non muovetevi, voi non avete fatto nulla di cui vergognarvi. Questo è vero. Un litigio tra uomini che pubblicizzi il nome di una donna va evitato a ogni costo, ma prima o poi dovrò incontrarlo, Mr. Preston. Non troverà cosa piacevole l'aver messo mia figlia in una situazione equivoca. Non mi ci ha messo lui. Non sapeva che sarei arrivata io. Non si aspettava di incontrare me in nessuna delle due occasioni e avrebbe di gran lunga preferito non accettare la lettera che gli ho consegnato se avesse potuto evitarlo. È tutto un mistero. Detesto che tu sia coinvolta in tali garbugli. Anch'io odio esserci in mezzo, ma cosa devo fare? Conosco un altro segreto che sono stata pregata di non divulgare. Non posso farne a meno. Beh, allora posso dirti solo di non essere l'eroina di un mistero. Questo puoi evitarlo, se non puoi fare a meno di esserne coinvolta. Dunque, immagino di dover accondiscendere ai tuoi desideri e lasciare che lo scandalo si esaurisca da solo, senza che io ci faccia caso. Date le circostanze, che altro puoi fare? Eh già, che altro? Ma tu, come te la caverai? Per un attimo vive e calde lacrime salirono agli occhi di Molly. Che tutto il suo mondo pensasse male di lei. Doveva essere davvero difficile per una ragazza che non aveva mai detto né pensato niente di scortese su di loro. Ma sorrise mentre rispondeva. È come togliersi un dente. A un certo punto passa. Sarebbe molto peggio se davvero avessi agito nel torto. Cinzia vedrà, riprese il padre, ma Molly gli mise una mano davanti alla bocca. Papà, non bisogna accusare Cinzia o sospettare di lei, così la farai sola andare via di casa. Lei è così orgogliosa e senza protezione, eccettuata la tua. E Roger, per riguardo a Roger, tu non farai, non dirai mai nulla che possa far allontanare Cinzia quando lui l'ha affidata a tutti noi, affinché ci prendessimo cura di lei e l'amassimo in sua assenza. Oh, penso che se lei fosse veramente malvagia e se io non le volessi bene per niente, mi sentirei in dovere di vegliare su di lei perché lui l'ama tanto. E poi lei in fondo è buona e io le sono molto affezionata. Non devi tormentare o ferire Cinzia, papà. Ricorda che lei dipende da te. Penso che il mondo andrebbe avanti abbastanza bene se non ci fossero le donne. Le donne ti tormentano fino a cavarti l'anima e tra voi tu mi hai fatto dimenticare. Il povero vecchio Job Houghton, che sarei dovuto andare a visitare un'ora fa. Molly aprì la bocca per ricevere un bacio. Adesso non sei arrabbiato con me, papà, vero? Fuori dai piedi, baciandola comunque. Se non sono arrabbiato con te, dovrei esserlo, perché hai causato una grande preoccupazione che, posso dirtelo, non sarà superata per un bel po'. Nonostante la spavalderia dimostrata in quella conversazione, fu Molly a soffrire più di suo padre. Lui si teneva alla larga dai pettegolezzi, ma lei si trovava continuamente in mezzo alla ristretta società del posto. Mrs. Gibson aveva preso freddo e poi non era attratta dalla quiete visite all'antica che si svolgevano in quel periodo, sollecitate dal soggiorno di due graziose e grossolane nipoti di Mrs. Dawes, le quali ridevano, cianciavano e mangiavano, e avrebbero volentieri flirtato con Mr. Ashton, il vicario, se per qualche ragione costui fosse stato indotto a comprendere quale fosse il proprio ruolo nella faccenda. Mr. Preston non accettava gli inviti ai tè di Hollingford con la stessa entusiastica gratitudine dell'anno precedente, altrimenti l'ombra che incombeva su Molly sarebbe stata estesa a lui, il complice degli incontri clandestini che avevano così offeso la virtù muliebre della città. Molly veniva invitata perché non sarebbe stato opportuno fare un simile affronto al signore o alla signora Gibson, ma era in atto una tacita e nascosta protesta in merito al fatto che fosse ricevuta come una volta. Tutti erano cortesi con lei, ma nessuno era cordiale. Si percepiva chiaramente un velo di differenza rispetto al loro comportamento di un tempo nei suoi riguardi, niente che avesse contorni netti o che potesse essere definito. Ma Molly, pur con la sua coscienza pulita e il suo cuore impavido, avvertiva fortemente il fatto di essere solo tollerata e mai la benvenuta. Colsi mormorii insistiti delle due signorine Oaks, che quando incontrarono per la prima volta la protagonista del ben noto scandalo, la guardarono intralice e criticarono la sua presunzione di bell'aspetto, senza quasi sforzarsi di parlare a bassa voce. Molly tentò di sentirsi grata che suo padre non fosse dell'umore di far visita a qualcuno. Era persino lieta che la matrigna fosse troppo malata per uscire, mentre lei si sentiva così disprezzata e, per così dire, scalzata dal proprio posto. La stessa Miss Browning, sua vecchia e sincera amica, le parlava con raggelante contegno e con molta reticenza. Infatti, ella non aveva più sentito una parola da parte di Mr. Gibson dopo la sera in cui si era data tanta pena e gli aveva raccontato degli spiacevoli pettegolezzi che riguardavano sua figlia. Solo Miss Phoebe cercava Molly, e con tenerezza anche maggiore del solito, e questo metteva alla prova la calma della ragazza più che tutti gli altri affronti messi insieme. La mano morbida che stringeva la sua sotto il tavolo, il rivolgersi continuamente a lei come per farla rientrare nella conversazione, commuovevano Molly quasi fino a farla piangere. A volte la povera ragazza si chiedeva se questo mutamento nella condotta delle sue conoscenze non fosse solo una sua fantasia, se non avendo mai avuto quella conversazione con il genitore si sarebbe accorta di una differenza di trattamento. Non confessò mai a suo padre quanto quelle piccole mancanze di rispetto la facessero soffrire. Aveva deciso di portare il peso del proprio libero arbitrio, anzi, di più, e l'aveva insistito perché le fosse consentito di agire in quel modo. E adesso non era giusto arrecargli un dolore, mostrandosi restia ad accettare le conseguenze della propria volontà. Così non inventò neanche mai un pretesto per non partecipare a quei piccoli ricevimenti o per non mischiarsi alla società di Hollingford. Solo che a un certo punto ella abbandonò il tesissimo autocontrollo nel quale stava vivendo, quando una sera suo padre le disse di essere veramente preoccupato per la tosse di Mrs. Gibson e di detestare che Molly rinunciasse a una festa a casa di Mrs. Goodenough, alla quale erano state invitate tutte e tre, ma a cui solo Molly avrebbe partecipato. Il cuore di Molly fece un balzo all'idea di restare a casa, anche se il momento successivo si rimproverò per avere gioito di una sospensione della condanna ottenuta per via della sofferenza di un'altra persona. Tuttavia, i rimedi prescritti dal marito fecero bene a Mrs. Gibson ed ella fu particolarmente grata e carezzevole con Molly. Davvero, mia cara, disse accarezzandole la testa, penso che i tuoi capelli stiano diventando più morbidi. Stanno perdendo quella sgradevole sensazione di crespo. Allora Molly capì che la matrigna era decisamente di ottimo umore. La setosità o l'arricciarsi dei suoi capelli erano un infallibile indice dei sentimenti di Mrs. Gibson nei suoi riguardi. Mi dispiace che per colpa mia tu non sia potuta andare a questa festicciola, ma il caro papà è così estremamente preoccupato per me. Sono sempre stata una specie di prediletta per i gentiluomini e il povero Mr. Kirkpatrick non sapeva mai come comprendermi a sufficienza. Ma penso che Mr. Gibson sia anche più sciocco del suo affetto. Le sue ultime parole sono state: "Prenditi cura di te, Hyacinth." E poi è tornato indietro per dirmi: "Se non obbedisci alle mie indicazioni, non risponderò delle conseguenze." Io gli ho agitato davanti l'indice e gli ho risposto: "Non siate così ansioso, sciocco che non siete altro." "Spero che abbiamo fatto tutto ciò che ha prescritto," disse Molly. "Oh sì! Mi sento talmente meglio. Sai, per quanto sia tardi, penso che potresti andare da Mrs. Goodenough. Potrebbe accompagnarti Maria e mi piacerebbe vederti ben vestita. Quando una si mette brutti abiti caldi per una settimana o due, non vede l'ora di avere davanti i colori vividi e un vestito da sera. Perciò vai a prepararti, mia cara. E magari potresti portarmi qualche notizia. Perché a starmene chiusa qui, solo con te e papà, per gli ultimi 15 giorni mi sono depressa e rattristata e non sopporto di impedire che i giovani partecipino alle occasioni di svago adatte alla loro età. Oh, vi prego, mamma, preferisco davvero non andarci. Molto bene, molto bene. Penso solo che sia piuttosto egoista da parte tua, quando vedi che desidero così tanto fare questo sacrificio per amor tuo. Ma dite che per voi è un sacrificio e io non ci voglio andare. Molto bene. Non ho detto che puoi restare a casa? Ti prego solo di non essere pedante. Non c'è niente di più stancante per una persona malata di queste complicate argomentazioni. Poi, tacquero per un po'. Mrs. Gibson ruppe il silenzio dicendo languidamente: "Non riesci a pensare a niente di divertente da dire, Molly?" Molly andò a pescare negli angoli reconditi della sua mente alcune piccole banalità che aveva quasi dimenticato, ma si accorse che erano tutto fuorché divertenti. E così sembrò considerarle anche Mrs. Gibson. Dopo tutto, infatti, ella disse: "Vorrei che Cinzia fosse a casa." "Volete che le scriva per chiederle di tornare?" "Bah, non sono sicura. Vorrei sapere tante cose. Non ho mai sentito nulla di recente a proposito del povero caro Osborne Hamley, vero?" Ricordando che il padre le aveva ordinato di non parlare della salute di Osborne, Molly non rispose, ma non era necessario che lo facesse perché Mrs. Gibson continuò a pensare ad alta voce: "Vedi, se Mr. Henderson è stato premuroso come la scorsa primavera e le prospettive di Roger, mi dispiacerebbe davvero molto se succedesse qualcosa a quel giovanotto, per quanto sgraziato sia, ma bisogna riconoscere che l'Africa non è un paese solo insalubre, è selvaggio e in certe zone ci sono anche cannibali. Penso spesso a tutto ciò che ho letto nei libri di geografia mentre sono sveglia la notte, e se Mr. Henderson si sta davvero affezionando. Il futuro è celato ai nostri occhi da un'infinita saggezza, Molly, altrimenti vorrei conoscerlo. Si potrebbe calcolare il proprio comportamento presente molto meglio se solo si sapesse cosa accadrà. Ma tutto sommato, io credo che faremmo meglio a non allarmare Cinzia. Se solo avessimo saputo in tempo, avremmo potuto disporre che tornasse qui insieme a Lord Kemnor e a Milady. Stanno tornando? Lady Kemnor sta abbastanza bene per viaggiare? Sì, certo, altrimenti non avrei pensato se Cinzia potesse o no tornare con loro. Avrebbe fatto proprio una bella impressione, più che rispettabile, e le avrebbe dato una posizione nella cerchia degli avvocati londinesi. Dunque, Lady Kemnor sta meglio, senza dubbio. Pensavo che papà te ne avesse parlato, ma di certo lui è sempre così scrupoloso e attento a non parlare dei suoi pazienti. Molto corretto e discreto. Insomma, non mi dice quasi mai come stanno. Sì, il conte e la contessa, e Lady Harriet, e Lord, e Lady Cuxhaven, e Lady Agnes. E io ho ordinato un nuovo cappellino invernale e un mantello di satin nero. Capitolo 49. Molly Gibson trova chi la difende. Lady Kemnor si era ormai ripresa dalla violenza del suo attacco e dalla conseguente operazione, ed era nelle condizioni di trasferirsi alle Tori per un cambiamento d'aria. L'intera famiglia dunque l'accompagnò laggiù con tutta la magnificenza e il trionfo dovuti a una nobildonna malata. Con ogni probabilità la famiglia avrebbe soggiornato alle Torri più a lungo di quanto avesse fatto per diversi anni, durante i quali era migrata di qua e di là alla ricerca della salubrità. In qualche modo, dopo tutto, era molto piacevole e riposante tornare all'antica casa a vita e ciascun membro della famiglia se ne compiaceva a suo modo, soprattutto Lord Kemnor. Il suo talento per il pettegolezzo, il suo amore per i minimi dettagli, non riuscivano a trovare le giuste condizioni nel trambusto frenetico della vita londinese e nel corso delle visite sul continente. Erano decisamente stroncati sul nascere, poiché egli non sapeva parlare fluentemente il francese, né lo comprendeva con facilità quando lo ascoltava. Per di più, egli era un grande proprietario terriero e gli piaceva sapere come andavano le cose sui suoi possedimenti e come i suoi fittavoli se la cavavano nel mondo. Gli piaceva sapere delle nascite, dei matrimoni, delle morti e ricordava alla perfezione le facce della gente. In breve, se mai un pari fu una pettegola comare, Lord Kemnor era quel pari, ma era una comare di ottimo carattere, cavalcava nei dintorni sul suo vecchio robusto cavallino, con le tasche piene di monete da mezzo penny da regalare ai bambini e pacchettini di tabacco per gli anziani. Come una vecchia comare, poi, egli si godeva una tazza di tè pomeridiano nel salotto della moglie e sopra quella bevanda calda, perfetta per le chiacchiere, ripeteva tutto ciò che era venuto a sapere durante il giorno. Lady Kemnor si trovava esattamente in quella fase della convalescenza in cui questo ciarlare del marito era particolarmente gradevole, ma per tutta la sua vita ella aveva disprezzato così severamente l'abitudine di prestare ascolto ai pettegolezzi che riteneva doveroso, per coerenza, prima ascoltare e solo dopo protestare sdegnosamente. Tuttavia, era diventata usanza dei familiari riunirsi tutti nella stanza di Lady Kemnor dopo le varie passeggiate a piedi o a cavallo della giornata, e mentre lei consumava il suo pasto anticipato, sorbire il tè accanto al fuoco e riportare gli smozzichi di notizie locali che avevano sentito nelle ore precedenti. Dopo che avevano riferito tutto ciò che avevano da riferire, e non prima, erano sempre costretti ad ascoltare una breve omelia della contessa a proposito di argomenti triti e ritriti: la povertà della conversazione della gente, la probabile falsità di tutto quanto avevano udito e la degradazione morale indotta dalla ripetizione di quelle notizie. In una di queste sere novembrine erano tutti raccolti nella stanza di Lady Kemnor. Lei era stesa, drappeggiata di bianco e coperta da uno scialle indiano, su un divano accanto al fuoco. Lady Harriet sedeva sul tappeto proprio davanti alla legna ardente e con un paio di minuscole pinze raccoglieva i tizzoni caduti per sistemarli in una pila rossa e odorosa al centro del camino. Lady Cuxhaven, notevole sin da quando era ragazza, stava sfruttando la luce del crepuscolo per lavorare retine da frutta per le mura di Cuxhaven Park. La cameriera di Lady Kemnor stava tentando di versare il tè alla luce di una unica piccola candela di cera sullo sfondo. Gli occhi deboli di Lady Kemnor, infatti, non tolleravano la luce. E i grandi rami spogli degli alberi fuori di casa continuavano a sfrusciare contro le finestre, agitati dal vento che si stava alzando. Era abitudine di Lady Kemnor trattare sprezzantemente coloro che più amava. Il marito subiva costantemente questo suo sdegno, ma ella sentiva la sua mancanza ora che lui era in ritardo e dichiarava di non volere il tè. Ma tutti sapevano che questo dipendeva solo dal fatto che non c'era lui a porgerglielo e a farsi rimproverare per la sua intollerabile stupidità nel dimenticare che alla moglie piaceva versare lo zucchero prima di aggiungere la panna. Finalmente, l'uomo fece il suo ingresso. «Vi chiedo perdono, mia signora, sono in ritardo, lo so». «Ma come? Non avete ancora preso il tè?» esclamò, muovendosi scompostamente per prendere la tazza della moglie. «Sapete che non aggiungo mai la panna prima di averlo zuccherato», disse lei con maggiore enfasi del solito su quel «mai». «Ma certo, come sono sciocco! Direi che ormai dovrei ricordarmene. Vedete, ho incontrato il vecchio Shepshanks. Ecco la ragione». «La ragione per cui mi avete passato la panna prima dello zucchero?» chiese la moglie. Era una delle sue spietate battute. No, no, state meglio stasera, mia cara. Ma come dicevo, Shepshanks è così logorroico, non c'è modo di sfuggirgli e io non avevo idea che fosse così tardi. Bene, penso che il minimo che possiate fare sia raccontargli qualcosa della conversazione con Mr. Shepshanks, ora che ve ne siete liberato. Conversazione? L'ho chiamata conversazione? Non penso di aver detto tanto. Io ho ascoltato. Aveva veramente molte cose da riferire, più di Preston, per esempio. E tra parentesi, mi stava dicendo qualcosa riguardo a Preston. Il vecchio Shep Shanks sostiene che si sposerà presto e dice che si fa un gran parlare di lui e della figlia di Gibson. Sono state sorprese a incontrarsi nel parco e a scambiarsi lettere e tutte quelle cose che con ogni probabilità sfociano in un matrimonio. Mi dispiacerebbe moltissimo, interloquì Lady Harriet. Quella ragazza mi è sempre piaciuta e l'intendente modello di papà non lo posso sopportare. Non penso che sia vero, affermò Lady Kemner, in una parte molto chiaro e distinto a Lady Harriet. Un giorno papà riferisce delle storie e il giorno dopo le smentisce. Ma questa sembra proprio vera. Shep Shanks ha detto che tutte le vecchie signore del villaggio se ne sono impadronite e hanno tirato su un bello scandalo. Non mi dà l'idea di essere una bella storia. Mi domando come Claire possa permettere che avvengano certe cose, commentò Lady Cuxhaven. Io ritengo molto più probabile che la protagonista di questa storia sia la figlia di Claire, la bella e furba Miss Kirkpatrick, osservò Lady Harriet. Lei sembra sempre l'eroina di una commedia borghese e quelle signorine erano capaci di un bel po' di innocenti sotterfugi, se ben ricordo. Ora, la piccola Molly Gibson è dotata di una certa gausserie che la renderebbe immediatamente inadatta a qualunque atto clandestino. E poi, clandestino, insomma, la bambina è la sincerità fatta persona. Papà, siete certo che Mr. Shep Shanks abbia detto che è stata Miss Gibson ad alimentare lo scandalo Hollingford? Non è stata Miss Kirkpatrick. L'idea che lei e Mr. Preston possano unirsi non sembra così assurda, ma se si tratta della piccola amica Molly, io andrò in chiesa a proibire le pubblicazioni matrimoniali. Davvero, Harriet, non capisco cosa ti renda sempre così interessata ai miseri affari di Hollingford. Mamma, è solo questione di pan per focaccia. Loro sono interessantissime a tutto ciò che noi facciamo e diciamo. Se io stessi per sposarmi, vorrebbero conoscere ogni possibile dettaglio. Quando ci siamo conosciuti, che cosa ci siamo detti la prima volta? Cosa indossavo? E se lui si sia dichiarato di persona per lettera? Sono certa che le buone signorine Browning erano meravigliosamente ben informate in merito al modo in cui Mary gestiva la sua nursery ed educava le sue figlie. Dunque, voler sapere da parte nostra come loro vivono la loro vita è semplicemente un doveroso ricambiare il complimento. Io sto assolutamente dalla parte di papà. Mi piace sentire tutti i pettegolezzi locali, specialmente quando sono conditi dalla spezia dello scandalo e della sconvenienza, come in questo caso, disse Lady Kemner, con la momentanea amarezza dei convalescenti. Lady Harriet arrossì infastidita, poi però recuperò il coraggio e aggiunse con maggiore serietà rispetto a prima. Riconosco di essere davvero interessata a questa faccenda di Molly Gibson. Lei mi piace, la rispetto anche, e non mi va di sentire il suo nome associato a quello di Mr. Preston. Non posso fare a meno di credere che papà abbia commesso un errore. No, mia cara, garantisco che ho ripetuto quello che ho sentito. Mi spiace averne accennato se la cosa dà fastidio a te o a Milady. Shep Shanks, però, ha proprio nominato Miss Gibson e ha ripetuto che è un peccato che la ragazza abbia fatto tanto parlare di sé, perché è stato il modo in cui hanno portato avanti la cosa che ha destato tanto clamore. Preston, di suo, era un ottimo partito per lei e nessuno avrebbe obiettato, ma cercherò di trovare qualche notizia più piacevole. Il vecchio Margery, alla loggia, è morto e non sanno dove trovare qualcuno che insegni l'inamidatura alla vostra scuola. L'anno scorso Robert Hall ha fatto 40 sterline con le sue mele. Così abbandonarono l'argomento di Molly e delle sue vicende. Non solo Lady Harriet continuò a ripensare a quanto aveva appreso con interesse e meraviglia. L'ho messo in guardia su di lui il giorno delle nozze di suo padre e, come era schietta ed esplicita allora, non ci credo, è solo una delle storie del vecchio Shep Shanks, mezza invenzione e mezza sordità.